Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi abbiamo chiesto l'impeachment del Presidente della Repubblica. Senza di lui tutta questa mancanza di dignità economica e sociale non ci sarebbe stata. Insomma, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, avete sentito un grillo che ha fatto il suo show oggi a Bruxelles, è ritornato sulla scena politica e attribuisce al presidente Napolitano un po' tutta la colpa dei rovesci italiani, sociali ed economici di questo periodo. Insomma, sono punti di vista. Stasera ne parleremo molto di politica perché c'era oggi il faccia a faccia tra Renzi e Berlusconi, poi è in corso invece il vertice del PD, la direzione del PD, per capire insomma se come proseguire, come ricompattare evidentemente anche in questo caso il partito, come ha fatto ieri Berlusconi con Forza Italia. Stasera la notizia è che la minoranza del PD non ci sarà presente a questo vertice. Poi ne parleremo in modo più approfondito, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, se volete fare, se ci sarà tempo questa sera, sulla politica o su altri argomenti che tratteremo, oppure c'è il numero per i messaggi al 349-238-6666. Ma vi riassumo brevemente le notizie della giornata. Come sempre un riassunto a partire appunto dal vertice, dall'incontro tra Renzi e Berlusconi. Sembra che sia stato trovato l'accordo, rilanciano il patto del Nazareno insieme per l'Italia e ci sono alcuni distinguo però sull'Italicum. CGIL, sciopero generale il 5 dicembre, è stato proclamato dalla leader Susanna Camusso, e scontro però ancora sulla data, e Camusso dice auspico che ci siano anche CISL e UIL. Due morti per il maltempo, frane e allagamenti in mezza Italia, disagi, allerta dal nord a sud, in tilt l'aeroporto di Genova. E poi uno storico accordo tra la Cina e gli Stati Uniti sui gas serra per la riduzione. Obama orgoglioso, dice l'annuncio a Pechino, ma resta il nodo comunque dei diritti umani per quanto riguarda la Cina. E poi questo successo del viaggio di Rosetta, della sonda, nello spazio, che viaggiava da 20 anni, che è riuscita ad atterrare su una cometa. E naturalmente la politica in primo piano, come avete sentito, con l'incontro che c'è stato oggi, era molto atteso, forse era in bilico, si diceva ieri, tra Renzi e Berlusconi, per discutere ancora dell'Italicum, della legge elettorale, delle modifiche. Sembra che sia stato raggiunto un accordo di massima, poi capiremo, collegandoci direttamente con Roma, quali sono invece ancora i punti in discussione. E poi, dicevamo, dovrebbe essere in corso, iniziare più o meno in questi momenti, la direzione del PD, che magari se riusciamo sentiamo anche in streaming. Fra l'altro avete sentito appunto dello sciopero indetto dalla CGIL per il 5 dicembre, però c'è già una grossa polemica perché il deputato del PD Ernesto Carbone ha detto oggi, con un tweet ha scritto, il ponte è servito, notando la coincidenza che c'è tra la data scelta dalla CGIL e il ponte dell'Immacolata. E poi di nuovo la CGIL ha replicato. Dovremo sentire poi più tardi raggiungere il segretario della UIL per capire se effettivamente ci saranno anche loro in piazza, se ci sarà lo sciopero generale, se aderiranno insomma oppure no. E poi sul tema del lavoro, riflettori puntati sull'avvertenza AST, le acciaierie speciali di Terni, che oggi ha vissuto delle ore segnate da una clamorosa protesta. Hanno bloccato l'autostrada del Sole per circa 4 ore per ottenere dal governo e dall'azienda per cui lavorano rassicurazioni sul proprio posto di lavoro. Sono gli operai della AST, le acciaierie di Terni, i quali con uno sciopero che dura ormai da 20 giorni chiedono la revisione del piano industriale che prevede circa 300 esuberi e secondo i lavoratori non dà garanzie sul futuro degli impianti. Oggi, dopo l'ennesimo nulla di fatto di ieri a Palazzo Chigi, hanno tentato il tutto e per tutto. In centinaia si sono riversati sulla A1 a Orte in provincia di Viterbo, spaccando l'Italia in due, creando fino a 10 chilometri di coda. Si sono fermati solo quando da Roma è arrivata la notizia di un'altra convocazione dei sindacati per domani. Una riunione importante, ci spiega Maria Antonietta Vicaro dell'UGL Metalmeccanici, annunciando un incontro anche con i vertici della casa madre tedesca. Lunedì saremo a Monaco per un incontro già confermato con i vertici di Thyssen, per avere anche direttamente dall'azienda la certezza che quel piano industriale, se non altro, oltre i 2 anni sia anche insomma spendibile per un futuro. Sì, perché a rischio non è il futuro dei lavoratori, ma di un'intera città. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per ritornare sulla politica, oggi vi dicevo Beppe Grillo in Europa, Bruxelles ha attaccato un po' tutti, lo ha fatto nello stesso giorno in cui il presidente della Commissione europea Juncker ricompare per difendersi dallo scandalo cosiddetto LuxLeaks. Beppe Grillo vola a Bruxelles e recita il copione autoassegnatosi. In poche ore lancia il referendum anti-euro, attacca a testa bassa il neopresidente della Commissione europea Juncker, che definisce ex ministro delle finanze di un paese paradiso fiscale e già che c'è. Annuncia anche guerra alla BCE e alla Germania prima di definire i banchieri cadaveri di cera. La soluzione che propone è sempre la stessa, il ritorno alla sovranità monetaria, ma è sul finale che Grillo inciampa. Putin fa le conferenze stampa dove intervengono gli amici suoi e dicono grazie per aver... Quando Grillo prova a imbastire una finta conferenza stampa con domande e ringraziamenti da parte di esponenti del suo gruppo politico, Lorenzo Consoli, uno dei più apprezzati e competenti corrispondenti italiani a Bruxelles, lo interrompe. La conferenza stampa senza domande di giornalisti la fa Putin, attacca Consoli. Grillo non trova altra risposta che il già visto e sentito monologo contro i reporter. Intanto Jean-Claude Juncker ha fatto un'apparizione a sorpresa in sala stampa per difendersi dopo lo scandalo LuxLeaks sui trattamenti di favore alle multinazionali in Lussemburgo. Non c'è alcun conflitto di interesse dal momento che la stessa commissione ha lanciato indagini su Lussemburgo, ha detto Juncker, che ha promesso di non interferire nelle decisioni della commissaria alla concorrenza Vestager, prima di aggiungere c'è urgenza di arrivare all'armonizzazione fiscale in Europa, combatterò l'evasione e la frode fiscale. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E a questo punto siamo al maltempo, tocca ancora parlare di maltempo, le condizioni sono sempre piuttosto allarmanti da nord a sud, in particolare in Lombardia, ancora in Liguria, ma c'è Roberta Pellegata che ci aggiorna. Ciao Roberta. Sì, buonasera, sì, purtroppo ci tocca ancora parlare di maltempo perché la pioggia è incessante ed è un bollettino lunghissimo, quello dei danni e dei disagi provocati dai nubifragi di questi giorni, disagi in tutta Italia, ma purtroppo oltre ai problemi di maltempo ha provocato ancora vittime. Dopo i coniugi di Leivi in Liguria, oggi ancora un morto, questa volta in Piemonte, nel Biellese, è un uomo di 66 anni travolto da una frana nei pressi della sua abitazione a Crevalcuore, frana che ha ferito in modo serio un'altra persona di 59 anni, un vicino di casa. E c'è una vittima anche in Lombardia, a Ispra, in provincia di Varese, dove un uomo di 70 anni che stava sistemando delle barche sul Lago Maggiore è caduto in acqua annegando. Lago Maggiore che è già esondato e la cui piena è attesa per domani a Verbania, ma è massima l'attenzione per il livello di tutti i fiumi e i laghi nel nord. A Milano hanno esondato ancora una volta il Seveso e domani nel quartiere interessato, Niguarda e nella zona 9, le scuole rimarranno chiuse, allagamenti anche a Monza e provincia dove fu riuscito il Lambro. Diverse le stazioni FS lombarde allagate con problemi alla circolazione dei treni e per smottamenti e pericolo esondazioni sono tante le strade chiuse in diverse regioni del nord con relative evacuazioni e comunità isolate. Ma allagamenti e disagi si registrano anche nel resto della penisola, come all'isola d'Elba e ancora più giù in Campania, nella zona Flegrea e poi in Puglia, a Brindisi. E piove ancora in Liguria, già duramente colpita. A Leivi mancano ancora luce e acqua. A Genova, in seguito a frane, sono crollate due case. Una era già stata evacuata, l'altra è stata abbandonata dalla coppia che l'abitava in extremis. E purtroppo, dopo una tregua, altra pioggia verrà, secondo le previsioni. Sabato è infatti attesa una nuova forte perturbazione sul nord e sulla Toscana, con nubifragi previsti in Piemonte e in Liguria. Ed è tutto per il momento. Grazie Roberta Pellegata. E adesso una notizia anche di cui parleremo poi più tardi, che riguarda il caso Moro. Il procuratore generale di Roma, Ciampoli, ha chiesto di rimandare a giudizio il superconsulente americano che al tempo del sequestro Moro venne in Italia per aiutare il governo di Giulio Andreotti a gestire la crisi di questo sequestro fatto dalle Brigate Rosse. Ebbene, dice che ci sono gravi indizi sul suo concorso in questo omicidio. Poi ne parleremo. Adesso però spostiamoci all'estero con le tensioni in Ucraina. Poco fa deve essere citato il vertice d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU e Kiev ha riunito il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale per discutere la situazione di nuova crisi che intanto si è sviluppata nell'est del paese. Vertice di sicurezza nazionale dopo che la NATO ha confermato che veicoli militari russi hanno superato la frontiera, dopo che la cresciuta presenza di forze armate era già stata denunciata dagli osservatori dell'OSCE. La crisi sul fronte orientale dell'Ucraina riesplode e frantuma il quadro, peraltro sistematicamente violato, degli accordi di pace firmati tra Putin e Poroshenko in settembre a Minsk. Dopo il doppio voto di inizio mese, che ha di fatto sancito la spaccatura tra una maggioranza orientata verso l'Europa e il nucleo filo russo distillato intorno alle città di Donetsk e Lugansk. La difesa strenua da parte delle truppe fedeli a Kiev dell'aeroporto di Donetsk è diventato simbolo insieme spunto per riportare truppe e armamenti intorno alle trincee scavate nei 6 mesi di guerra civile. Poroshenko, dopo il riconoscimento di Mosca al voto separatista in quella che ormai viene chiamata Nova Russia, vede accelerare la crisi che divide la capitale tra una linea moderata rappresentata dallo stesso presidente Poroshenko e una linea più determinata allo scontro guidata dal premier Yatsenyuk, originario di Chernivtsi, estremo ovest del paese, che qualcuno accusa già di voler alimentare i fattori di scontro per sancire, magari con il sangue, il distacco definitivo di un'Ucraina mutilata dall'orbita di Mosca. Gigi Donetsk, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi parleremo anche naturalmente di Rosetta, di questo successo storico per quanto riguarda la ricerca nello spazio. Intanto però torniamo su Roma, parliamo di cultura con una mostra davvero particolare. Roma, ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma. Ma stasera c'ho bisogno. Cantava a Roma Nino Manfredi, la città che per tutta la vita è stata la sua casa e la sua musa. E a 10 anni dalla morte la città eterna lo celebra con una grande mostra a Palazzo Braschi. A curarla la nipote Sara Masten. Sono felice di aver potuto portare mio nonno, no, ai romani di nuovo. Questa mostra magari porterà anche i più giovani a riscoprire e conoscere mio nonno. Foto, filmati e oggetti, dalla cucina di casa con tanto di TV e ricetta della pasta e fagioli, ai 100 volti di Nino, Pasquino, Geppetto, Romoletto in Susanna tutta panna. Un itinerario che non racconta solo il grande maestro, ma anche l'uomo. In queste sale rivedo la nostra vita insieme, racconta la moglie Erminia Manfredi. Mi crea una grandissima emozione perché rivivo tutti questi anni. Parti della mostra erano già state esposte a Los Angeles e a New York e a breve approderanno anche a Parigi, ma l'allestimento nella sua versione completa si potrà visitare solo nella capitale. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso parliamo, vi dicevo, di Rosetta, che è riuscita a conquistare la cometa. Si temeva nelle ultime ore che potesse agganciarla questa sonda che sta viaggiando da molti anni nello spazio per studiare questa cometa, perché qui ci potrebbero essere degli elementi per capire quali sono le origini dell'universo. Ma intanto cerchiamo anche di capire che qual è il valore di questa ricerca e di questa sonda. Ben 60 aziende da 14 paesi europei hanno partecipato a questa missione europea di Rosetta. Oggi appunto, questo è stato il suo giorno della verità, il controllo della missione è stato dell'ESA, dell'Ente Spaziale Europeo. Sentiamo allora Franco Bonaccina, portavoce del presidente ESA, al microfono di Valentina Furlanetto. Europa 24 notte. Rosetta è made in ESA, ma anche molto made in Italy. C'è una grossa partecipazione di industria italiana, in particolare Alenia Spazio a Torino in Italia, per esempio, è stata responsabile per l'assemblaggio, l'integrazione e la verifica di tutta la parte di avionica, insomma, di questa sonda. E poi c'è sul modulo di atterraggio uno strumento molto particolare che è il trapano, che ci permetterà di fare un'analisi in sito del materiale a 20 centimetri di profondità. Questo trapano della professoressa Maglia Finzi del Politecnico di Milano analizzerà in piccolissimi forni la composizione chimica, i risultati verranno ritrasmessi dal lander, dal modulo di atterraggio a Rosetta, e Rosetta trasmetterà a terra agli scienziati il risultato di queste analisi. Quindi c'è molto made in Italy. C'è molto made in Italy, molta Europa anche. Gli altri paesi che hanno partecipato di più, quali sono? C'è molta Germania, responsabile principale dal punto di vista industriale è Astrium a Friedrichshafen in Germania, e c'è stato un grosso contributo anche di Astrium France. È veramente una costruzione, è un Lego europeo. Rosetta ha appunto dato da fare a tantissimi team industriali e darà tanti risultati agli scienziati, perché Rosetta di per sé, al di là del successo o meno dell'atterraggio, Rosetta è già un successo enorme. Nessuno è mai andato a catturare, mettersi in orbita intorno a una cometa, non ci aveva mai provato nessuno, ci siamo riusciti, dobbiamo essere orgogliosi di questo successo europeo. Dal punto di vista economico, quanto vale questa impresa? È un'impresa importante, è un investimento di 1.400.000.000, tutto compreso. In 10 anni? In 10 anni, sì, compreso il lancio, compresa tutta la parte degli strumenti che sono stati messi a bordo, gli 11 strumenti a bordo di Rosetta e i 10 strumenti a bordo del modulo di atterraggio, che appunto hanno dato lavoro a più di 1.000 persone sicuramente e a... immagino più di qualche decina di migliaia di scienziati alla fine che per molti, molti, molti anni sapranno analizzare con profitto i risultati di questa spettacolare avventura. Le comete sono degli scrigni pieni di informazioni sulla nostra vita, sulla nostra esistenza, sullo sviluppo del nostro sistema solare. Sono proprio le comete che racchiudono questa eredità della formazione del sistema solare ed è per questo che ci andiamo, per capire meglio cosa succede sulla Terra. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Bene, adesso direi di prenderci, avete sentito l'importanza di Rosetta, ma tra poco ne parleremo anche con Roberto Battiston, che è presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, visto che dobbiamo festeggiare anche questo successo. Intanto però c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, leggo anche un messaggio al 349-238-6666 di un ascoltatore piuttosto poetico, Cristiano da Lecce, che dice: una rosa su una cometa, che non sanguini la stella punta da qualche spina. C'è anche, diciamo, una vena poetica su questo atterraggio storico. Ma quali sono state le notizie principali di oggi? L'incontro tra Renzi e Berlusconi, che rilanciano il patto del Nazareno, insieme per l'Italia, dicono. C'è l'ok al premio per la maggioranza, di maggioranza, e poi differenze su lista coalizione, sullo sbarramento, poi ne parleremo. La CGIL che annuncia lo sciopero generale per il 5 dicembre e già c'è polemica sulla coincidenza che fa notare Carbone, deputato del PD, con il ponte dell'Immacolata. Il maltempo che imperversa un po' in tutta Italia con frane e allagamenti in mezzo paese, disagi e allerta dal nord al sud, in tilt l'aeroporto di Genova. Poi abbiamo parlato di questo storico accordo tra Stati Uniti e Cina sui gas serra, e ancora lo show di Grillo all'Europarlamento, dice il nemico è la Banca Centrale Europea, intanto Juncker si è difeso dallo scandalo LuxLeaks. E poi il caso Moro, il procuratore generale di Roma punta il dito sul superconsulente americano, dice che ci sono gravi indizi che c'è per il suo concorso in omicidio nella morte di Moro. E poi risale la tensione in Ucraina, pronti a combattere, dicono da Kiev. Intanto ecco, la sentite questa è l'atterraggio di Rosetta, o meglio di una parte di Rosetta sulla cometa. Oggi è stato veramente questo un atterraggio senza precedenti di un veicolo spaziale, come lo possiamo chiamare, una prima assoluta nella storia dell'esplorazione spaziale. Ne parliamo con orgoglio e sarà orgogliosissimo naturalmente Roberto Battiston, che saluto. Buonasera Battiston. Buonasera a voi. Le è familiare questo suono che sentivamo? Diciamo, questo suono è qualche cosa di, secondo me, una riproduzione di qualche cosa che in realtà non fa rumore, perché non essendoci aria nello spazio i rumori non possono quindi esistere. Quindi un'illusione acustica, è un modo per simboleggiare. È un modo allusivo per fare un po' di background, per accompagnare l'evento. È presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi da presidente dell'ASI. Lei, a parte aver accolto, immagino anche lei con un applauso questo evento storico, che cosa di altro può dire rispetto a tutto quello che è stato detto con entusiasmo in queste ultime ore di questo atterraggio, del suo significato? Rappresentando l'Agenzia Italiana Spaziale, rappresento il paese, rappresento la comunità italiana industriale di ricercatori che hanno fatto in particolare questo incredibile sforzo e hanno partecipato in modo formidabile a questa avventura, un'avventura che data più di 20 anni fa. Alcuni dei pionieri che hanno inventato Rosetta, ricordo Angeletta Corradini, grande planetologa italiana, purtroppo scomparsa recentemente prima di vedere il successo di questa missione, sono persone che hanno dato le idee iniziali, che sono sembrate idee insostenibili, difficilissime, impossibili, ma che hanno tenuto duro e hanno saputo convincere piano piano le agenzie, i paesi. E ricordiamo che questa di Rosetta è sostanzialmente un'attività fatta in Europa, cioè gli Stati Uniti per una volta su una grande missione non sono praticamente presenti. Questo è un motivo di orgoglio moltiplicato, perché vuol dire che le tecnologie sono tecnologie italiane, francesi, tedesche, europee, e che dimostrano che questo grande vecchio continente può produrre delle cose che sono delle prime mondiali oggi nel 2014. Però, Battistone, tecnicamente in realtà non è proprio la sonda Rosetta, non è lei che si è appoggiata, che ha agganciato la cometa, ma è il piccolo lander File, cioè un pezzo di Rosetta che è atterrato sulla cometa. Piccolissimo, non è grande come una grossa scrivania, quindi dipende dai punti di vista. È una cosa che è grande per essere andata a 500 milioni di chilometri dalla Terra dopo un inseguimento di 10 miliardi di chilometri, è una cosa piccola se lo confrontiamo ai grandi satelliti che costellano il nostro spazio. Si chiama File, il nome che è stato dato dopo una competizione che fu fatta una decina di anni fa da un'italiana, Vismara, una ragazza di 15 anni che oggi ne ha 25 ed era con noi oggi a festeggiare ad Darmstadt questo grande evento dell'atterraggio, emozionatissima perché era il suo giorno della sua sonda che atterrava sulla sua cometa. Adesso starà lì questa File, questa specie di scrivania, quanto tempo e che cosa farà? Ma diciamo, lei è scesa con questa difficilissima operazione di atterraggio e in cui non sapevamo su cosa atterrava, se atterrava su una cosa dura, su una cosa morbida. Chiaramente i meccanismi di rimbalzo, di aggancio sono completamente diversi a seconda di quel terreno che uno trova. E quello che è successo, ce l'hanno spiegato pochi minuti fa nell'aggiornamento che ormai riceviamo ogni qualche ora, e è atterrata, ha messo tutti e tre i piedi nel terreno di questa cometa. Sappiamo che è un misto di terra, sabbia, ghiaccio, una strana cosa piuttosto fragile, e si è capito che sono penetrati questi piedi per alcuni centimetri. Poi ci hanno riportato che l'urto è stato assorbito. Ricordiamoci che è scesa alla velocità di un uomo che cammina, è come se noi avessimo sbattuto camminando contro un muro, un urto forte ma non fortissimo, e assorbito da opportuni assorbitori, però poi hanno visto delle piccole oscillazioni sulla modalità di trasmissione radio e sulla quantità di energia raccolta dai pannelli solari, che fanno pensare che ha fatto un leggero, lentissimo rimbalzo per poi riappoggiarsi. Ricordiamo che la gravità in questa cometa è piccolissima, c'è ma è minuscola, quindi tutto avviene a rallentatore. L'energia di questo File è praticamente completamente assorbita, ma quel poco che rimane gli ha fatto fare uno, due, forse tre rimbalzi. Mi dicevano però pochi minuti fa che adesso è tutto fermo, quindi come se questo rimbalzo lentissimo che è durato alcune ore si sia tranquillizzato, e quindi domani inizieranno un'altra fase di studio considerando che File sia fermo sulla superficie, anche se non ancora agganciato. Lo scopo, per chiudere, Battistone, sarebbe quello di conoscere, cercare di fare qualche passo in più nella conoscenza delle origini dell'universo? Beh, più dell'universo, del sistema solare. La Terra si è formata per l'urto di milioni, forse miliardi, di questi pezzi di ghiaccio, di polvere, di comete che riempivano la zona attorno alla stella primordiale che era il Sole circa 5 miliardi di anni fa. Bene, questo bombardamento evidentemente ha portato anche moltissima acqua, in effetti le comete sono ghiacciate, e è ancora aperta la domanda: da dove viene la vita? È nata grazie all'acqua per un processo di produzione locale o l'acqua se l'è portata dietro? È una domanda fondamentalmente semplice ma fondamentale nel suo interesse, e chi lo sa che sotto la crosta di una cometa non ci possa essere una risposta a questa domanda. Sarebbe una sorpresa assolutamente fantastica che ci ripagherebbe tutto il lavoro fatto. Beh, speriamo che arrivi questa risposta, e intanto già questo pare un successo. Grazie Roberto Battiston. Grazie a voi, buona serata. Adesso andiamo su cose più prosaiche con la nostra Betta Fiorito da Roma in diretta. Ciao Betta. Ciao, guarda, è atterrato Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi per 2 ore oggi, Roberta. Cioè, c'è stata una collisione spaziale? Matteo Renzi. Ah, sì. Bene. Non c'è stata nessuna collisione, meteoriti, no? Come è andato piuttosto bene poi l'esito, qual è stato? Hanno dato risposte all'universo? Diciamo sì. Così che le risposte all'universo sono confuse come una coda della cometa, perché l'Italicum regge ma un po' a metà, nel senso che loro si sono incontrati, sai che è tipo una soap opera oramai, una love story, no? Possiamo dirlo, sono sì. Alti e bassi, eccetera. Matteo Renzi ha incontrato Silvio Berlusconi 8ª volta in 11 mesi e hanno ribadito il sì al patto del Nazareno, che oramai sembra più una nebulosa, ecco appunto, o un buco nero, tanto se vogliamo rimanere... Termini spaziali, ti vedo preparata, insomma. Termini spaziali, perché in realtà questo accordo si sta sgretolando come la coda di una cometa sempre di più, in quanto non c'è praticamente accordo. Hanno solo detto sì, noi andiamo avanti, sì, ribadiamo che la legislatura finirà nel 2018, questo è poi più un auspicio di Silvio Berlusconi che non di Matteo Renzi, e a un certo punto ci sarà un premio di maggioranza a chi supera il 40%, ma anche qui dramma, oppure nebulosa, il PD chiede che questo 40% vada alla lista e non alla coalizione, mentre Forza Italia vorrebbe che andasse alla coalizione, perché a quel punto raccoglie anche la Lega e tutto, magari anche il nuovo centrodestra in una competizione elettorale, ok? Mentre il PD oramai dopo il 40% viaggia da sé, dice. Viaggia da sé e quindi vorrebbe la lista. Dopodiché, altro scoglio, il fatto della soglia di sbarramento. Renzi, per dare un segnale ad Alfano, alla maggioranza, ai piccoli partiti, vorrebbe questa soglia al 3%. Berlusconi vorrebbe invece che venisse comunque almeno stabilito un 4%. E questo già genera un altro po' di confusione, quindi vediamo che questo patto del Nazareno è sempre più una, non lo so, che altro termine ti viene? Una meteora. Vediamo. Bravo. Dopodiché c'è il problema dei capi lista e dei collegi, quindi calcoliamo i collegi come piccole costellazioni, ecco, tanto per riprendere questa metafora, e a un certo punto anche qui c'è un problema. Berlusconi vuole i capilista bloccati, cioè ogni stella ha il suo capolista, capito? Mentre dalla minoranza PD si fa notare che assolutamente non è possibile avere un capolista per ogni collegio. Allora, insomma, praticamente loro ribadiscono un accordo che non c'è, questa è la mia visione. È un commento, non è una notizia, ecco, questo lo vorrei ribadire. E nel frattempo dovrebbe iniziare la direzione del PD, che è molto in ritardo. Ma perché è molto in ritardo? Perché in realtà c'è una fronda, la famosa fronda della minoranza di sinistra del PD, che non vuole partecipare, no? Sì, diciamo così, non lo so come li possiamo chiamare, i marziani del PD, che capeggiati da Pippo Civati hanno detto: noi non ci andiamo, perché se l'impero colpisce ancora sarebbe Matteo Renzi, loro fanno un po' di resistenza, ecco, questo è un po' per metterla alla guerra stellari. Però, parlando di cose serie, la minoranza PD chiede che innanzitutto non ci siano questi collegi bloccati per i capilista, e soprattutto che non si faccia una direzione del PD per ratificare patti presi con altre forze politiche, quindi insomma nessuno va lì per applaudire Renzi e per dichiararlo il nuovo imperatore dell'impero colpisce ancora, un po' questo. Una politica spaziale, ma se noi ci chiediamo ancora da dove veniamo, bisogna capire dove andiamo. Dove andiamo, sì. Bisogna capire oltre che da dove veniamo. Queste sono domande filosofiche, ora non so se Matteo Renzi sarà potrà così dare risposta. Ma chissà che non arrivi anche a questo. Grazie Betta Fiorito, grazie. Grazie da Roma. Almeno abbiamo alleggerito un po' la politica, ha detto cose serie ma con metafore spaziali, visto che oggi la vera notizia, la più grossa, è questa di Rosetta, che in buona parte è italiana. Ci possiamo prendere una pausa a questo punto, ci fermiamo, voi potete continuare a fluttuare nello spazio, scrivere anche i vostri messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte, e poi ci saranno altri argomenti, parleremo anche di questa novità che riguarda il caso Moro. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, adesso ve li dico in pochi secondi le notizie e poi approfondiremo una di queste. Abbiamo parlato dell'incontro importante che c'è stato in faccia a faccia, che era annunciato ieri, era ancora in bilico tra Renzi e Berlusconi, che rilanciano il patto del Nazareno ma con dei distinguo in realtà sulla riforma elettorale. Comunque c'è il via libera del passaggio della legge al Senato entro dicembre. E poi c'è in questi momenti c'è il vertice, la direzione del PD praticamente, del Partito Democratico, con i civatiani che dicono non veniamo, c'è stato uno scarso preavviso, quindi non ci saremo. E poi la CGIL che annuncia lo sciopero per il 5 dicembre, il maltempo che imperversa da nord a sud, è particolarmente difficile la situazione in Lombardia in questo momento con due fiumi che sono esondati, il Seveso e il Lambro. È un uomo che è morto nel Lago Maggiore, poi c'è stato lo storico accordo tra USA, tra Stati Uniti e Cina sul gas serra, e poi anche il caso Moro, che vede una novità, un passo ulteriore col procuratore generale di Roma che punta il dito su quello che fu allora il super consulente americano per il governo italiano. Dice ci sono gravi indizi che abbia concorso nell'omicidio del presidente della Democrazia Cristiana. E poi il successo storico di questo atterraggio di Rosetta sulla cometa, che è anche in buona parte un successo italiano. Adesso parliamo appunto di occupazione, ma in particolare dell'annuncio della CGIL oggi per voce della sua leader Susanna Camusso dello sciopero che dovrebbe esserci il 5 dicembre. E Susanna Camusso, fra le altre cose, ha detto auspico che ci sia una convergenza di CISL e UIL. E allora coinvolgo Carmelo Barbagallo, buonasera. Buonasera. Segretario generale della UIL, neo segretario generale della UIL. Ancora no. Ancora no. Che cosa? Ma al momento, insomma, diciamo che è lei ufficialmente il frontman, possiamo dire così, come si usa dire, sì. della UIL. Che cosa decidete? Ci sarà questa convergenza per il 5 dicembre, per lo sciopero generale? Ma guardi, noi abbiamo, dopo la manifestazione dei pensionati e dei pubblici dipendenti, ha auspicato che il governo facesse sentire la propria voce, e stamattina il governo ci ha convocato per lunedì 17 alle ore 19 per discutere intanto della riforma della pubblica amministrazione e, per quanto ci riguarda, del contratto della pubblica amministrazione. Quindi noi siamo per verificare se c'è una volontà di cambiamento nel governo, che prima non ci voleva manco ascoltare, adesso ci ha convocato per vedere se ci sono immagini di una trattativa per dare risposta al pubblico impiego con il nuovo contratto e ai pensionati e, per quanto attiene la legge di stabilità, le modifiche che abbiamo chiesto e anche il Job Act. Quindi siamo per aspettare il 17. È singolare che mentre stiamo aspettando finalmente che il governo ci chiamasse, ora che ha deciso di fare l'incontro, proclamiamo prima del tempo uno sciopero. Quindi mi pare di capire che questa convergenza con la CGIL non ci sia. Lei dice aspettiamo di vedere cosa succede in questo incontro, poi semmai... Noi abbiamo convergenze di molte opinioni, molti argomenti che abbiamo pure fatto nell'iniziativa unitaria che abbiamo portato avanti con i pensionati e con il pubblico impiego, però riteniamo che dopo avere avuto la possibilità che il governo accogliesse le nostre richieste, su cui noi come UIL in particolare ci siamo spesi moltissimo. Adesso andiamo a verificare quello che il governo ha da dire e vedere di portare a casa dei risultati. Quale potrebbe essere un risultato importante, per esempio, Barbagallo? A parte, lei ha visto oggi di nuovo le proteste degli operai dell'Asta, della acciaieria speciale di Terni, che hanno bloccato la 1 per diverse ore. Lì bisogna trovare la soluzione rapidamente. È stato convocato un incontro per domani. Vediamo se l'azienda si muove dalle ultime indicazioni che ha dato sul piano industriale. Noi siamo perché questo avvenga, e quindi i lavoratori sono un po' esasperati e bisogna tenere conto che lì si giocano i destini di molte famiglie. Le dicevo prima, appunto, quale potrebbe essere un primissimo passo per dire... Il primissimo passo è l'abolizione della Brunetta e l'apertura della trattativa per il nuovo contratto del pubblico impiego. Poi c'è l'affidamento rispetto alle richieste dei pensionati, quantomeno a partire dall'unificazione della no tax dal punto di vista di egualitarismo fra pensionati e diciamo dipendenti pubblici e privati. Lei sa che c'è una differenza a scapito dei pensionati, c'è il problema di una legge per quanto riguarda la non autosufficienza e gli 80 euro o quantomeno l'adeguamento delle pensioni, perché stanno diventando tutte più povere. Poi c'è la questione che riguarda la legge di stabilità, investimenti, come dice il governatore della Banca d'Italia, pubblici e privati per rilanciare l'economia, ma anche la finalizzazione delle diciamo, risorse che vengono destinate al taglio dell'IRAP e alla decontribuzione rispetto alle aziende virtuose che assumono, che fanno progetti di investimento e non a pioggia come potrebbe verificarsi con l'attuale disegno in modo indistinto. Diciamo, di legge. Sì, e poi sul Job Act di avere sia la questione di mantenere un livello di tutela per i lavoratori che oggi ce l'hanno e di estendere queste tutele ai giovani lavoratori che ancora non ce l'hanno. Barbagallo, io la ringrazio e ci aggiorniamo magari dopo il 17 novembre, allora, sperando che ci siano buoni esiti. Grazie e buona continuazione. Grazie e buonasera. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, in pochi secondi, perché tra poco c'è un altro argomento grosso, la politica, l'avete sentito, oggi è uno dei temi principali, l'incontro tra Renzi e Berlusconi, che rilanciano il patto del Nazareno, ma con dei distinguo, non c'è un perfetto accordo sull'Italicum, anche se sono d'accordo perché la legge va dal Senato entro dicembre. Poi ne abbiamo appena parlato, della CGIL che annuncia lo sciopero generale per il 5 dicembre e il successo della spedizione di Rosetta alla sonda che è atterrata oggi sulla cometa. E adesso parliamo del caso Moro, meglio della storia infinita del caso Moro, che si arricchisce oggi di una nuova tappa, diciamo anche di un colpo di scena, se vogliamo chiamarlo così. Il procuratore generale di Roma, Luigi Ciampoli, ha chiesto alla Procura della Repubblica di procedere formalmente a carico di Steve Pichenik, funzionario del Dipartimento di Stato americano ai tempi del sequestro di Moro, in quanto vi sarebbero, pensate, gravi indizi circa un suo concorso nell'omicidio del presidente a Democrazia Cristiana Moro. Pichenik era inviato informale del governo americano allora, era praticamente il super consulente americano del governo di allora, di Giulio Andreotti, e soprattutto del ministro dell'interno, che era Francesco Cossiga, per la gestione della crisi aperta dal sequestro di Moro da parte delle Brigate Rosse. Pichenik è sempre stato, va detto, uno dei grandi misteri di questa vicenda. Era psichiatra, esperto di terrorismo, aveva addirittura due lauree, spesso è stato considerato dagli storici il commissario straordinario inviato dagli Stati Uniti non tanto per appoggiare il governo italiano ma addirittura per sostituirlo in questa vicenda. Poi nel 2008 scrisse un libro intervista in cui fece alcune rivelazioni particolari, ma ne vorrei parlare con il senatore del PD Miguel Gotor. Buonasera senatore. Buonasera. Storico e saggista italiano, tra l'altro Gotor ha anche conseguito il premio Viareggio per un saggio che si intitolava Lettere dalla prigionia, che era relativo appunto agli scritti di Aldo Moro durante il suo sequestro. Che ne pensa di questa nuova tappa della vicenda? E in questo momento, come sapete, è in corso una nuova commissione d'inchiesta che riguarda la vicenda Moro. Di cui lei fa parte, tra l'altro, no, senatore Cotor? Di cui faccio parte, sì. Naturalmente, perché come me ha studiato per tanti anni quella vicenda, alcuni elementi che per l'opinione pubblica costituiscono una novità, ecco, invece sono già stati elementi di studio, ecco, di conoscenza. Per quanto riguarda Steve Pishnik, le posso dire che già nel 91-92 egli pubblicò delle interviste che furono pubblicate da un settimanale italiano, ebbero una certa risonanza, in cui esprimeva il nucleo fondamentale delle sue idee, che poi avremmo ritrovato in un libro del 2008, che, no? Se nel 2008, ecco, che è un libro francese questo, scritto, è stato tradotto in italiano nel 2008, un libro a cura di un giornalista francese che si chiama Amara, però ecco, anche lì il cuore delle affermazioni di Pishnik non costituivano una particolare novità se confrontato con quanto già egli dichiarò. Pishnik effettivamente nel 78 era un giovane ma già esperto di teatri di crisi, di sequestri di persona in scenari internazionali, e che lavorava al servizio del Dipartimento di Stato americano, e in uno spirito di collaborazione che è sempre intercorso tra gli Stati Uniti e il governo italiano, fu inviato come specialista, quale effettivamente era, per affrontare, per dare suggerimenti relativi al sequestro Moro. E a quanto risulta agli atti, e stando alle sue dichiarazioni, egli rimase a Roma fino al 20 aprile. Consideriamo che Moro il 9 maggio venne ucciso e poi ripartì. E sempre stando alle sue dichiarazioni, egli alloggiava all'hotel Excelsior a Roma. Questo è un dato non secondario, perché quell'hotel era il luogo dove allora e anche in seguito Licio Gelli, quando si trovava a Roma, risiedeva. Effettivamente ci sono dei documenti, degli atti in cui Pishnik fornisce dei suggerimenti, delle strategie o delle tattiche da adottare per affrontare quella tragica vicenda. Ora, i suggerimenti di allora che egli ha fornito, e che sono dei documenti consultabili pubblicamente, sono ben distanti da invece le dichiarazioni pubblicistiche che lo stesso Pishnik ha fatto oltre 20 anni dopo il sequestro, quando va detto che egli era diventato un'altra persona, cioè non era più un esperto di terrorismo internazionale, ma era diventato anche uno scrittore di fama, e scrittore di gialli, quale è tuttora. Io non so dire se per motivare questo cambiamento di orientamento tra il Pishnik del 78, che ha prodotto documenti, poi invece il Pishnik di 20 anni dopo, che è scrittore di gialli, ci possano essere stati anche delle ragioni di carattere pubblicitario. Ecco. Anche se, senatore Gotor, ricordo che in questo libro intervista che lei citava del 2008, lui praticamente ruppe il silenzio dichiarando apertamente di aver portato avanti un piano di manipolazione strategica perché si arrivasse, disse, all'uccisione di Aldo Moro, che era un obiettivo irrinunciabile nel contesto della stabilizzazione dell'Italia in quel periodo, unico paese dell'Occidente dove c'era un partito comunista che stava per avere accesso al governo. Quindi lui dice apertamente. Diciamo questo, allora c'è una differenza che è verificabile tra il Pishnik del 1978, che produce dei documenti che sono pubblici e consultabili e che hanno una loro serietà, con il Pishnik del 2008, sono quindi passati oltre 30 anni, che è diventato uno scrittore di fama e che effettivamente fornisce una interpretazione del suo operato di 30 anni prima completamente diversa. Allora, dico semplicemente, ma perché un po' di prudenza è sempre utile, che potrebbero anche esserci ragioni di carattere pubblicitario che hanno fatto sì che allo stesso Pičnik, come dire, ha assunto un diverso ruolo. Comunque la cosa da fare, che sarebbe molto utile, che non è mai avvenuta, è avere la possibilità di ascoltare Pičnik come commissione Moro. Ai tempi della commissione stragi diretta dal senatore Pellegrino si arrivò a un passo dalla possibilità di audirlo, fu lui poi a rifiutarsi, accampando delle ragioni direi volgari, cioè di mancati rimborsi spese o di richieste di rimborsi spese di pagamenti. Addirittura. Sì, io le sto dicendo appunto cose che come studioso ho avuto modo di conoscere. Potreste riprovarci adesso con la commissione di cui le fa parte, no, dottore? E se non è possibile farlo direttamente, si può fare una rogatoria, si può ascoltare in teleconferenza, ci deve essere la sua disponibilità. Certo, ma secondo lei come mai il procuratore generale di Roma Ciampoli adesso ha chiesto alla Procura della Repubblica di procedere formalmente a carico? Quindi c'è una... Ma io non conosco gli atti ancora. Posso immaginare che egli abbia dato, come è del tutto legittimo, più credito al Pičnik del 2008 che non al Pičnik del 78. Io semplicemente invito alla massima prudenza, perché uno degli obiettivi di questa commissione Moro è anche quello di diradare le tante dietrologie che troppo spesso si sono alzati e hanno impedito di raggiungere una verità credibile su quella tragica vicenda. Allora non c'è altro che da augurarsi, senatore Gotor, davvero di arrivarci a questa verità credibile prima o poi, anche grazie alla vostra commissione. Aspettiamo di vedere se questa cosa sarà concretizzabile. Grazie senatore Gotor. A voi. Grazie, grazie, buona continuazione. E adesso ancora qualche vostro messaggio. Ringrazio intanto Rosi e poi Riccardo Longo sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Poi scrive un ascoltatore, Enzo 64, super consulente americano prezzolato, imposimato pubblico ministero, imposimato allora lo scrive nel suo libro da qualche anno, però avete sentito anche Gotor, il senatore, ha detto che queste cose sono risapute da tanto tempo, poi si è deciso, detto adesso il procuratore generale di Roma. Poi a proposito di politica invece, stavo leggendo anche questo messaggio di Diego che scrive: quando si vuol mettere a tacere qualcosa è di grande aiuto spostare i riflettori altrove, legge elettorale, nessuno parla più di preferenze ma solo di ridicoli insignificanti percentuali sulla soglia di sbarramento. In realtà si è parlato anche molto di preferenze, perché quello che vorrebbe se non sbaglio un nuovo centrodestra, ma non Berlusconi. Insomma, per adesso c'è ancora molta confusione, come dicevamo all'inizio con Betta Fiorito da Roma. E poi a proposito di questo, un altro ascoltatore al 349 238 6666, che scrive: il commento spaziale di Betta Fiorito è stato fulminante, bravo, e non mi sono mai divertito tanto ascoltando riflessioni politiche. Si potrebbe fare sempre allora con qualche metafora di questo tipo. Non so se ci sarà una rosetta che atterrerà ogni giorno su una cometa, ma intanto queste sono due notizie che siamo riusciti a fondere oggi. Ci sentiamo tra poco.